Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Parere negativo dalle regioni per quanto riguarda il quarto conto energia. Questo l'esito della conferenza Stato-Regioni che si è chiusa poche ore fa. In ogni caso, il decreto, questo pare assodato, verrà controfirmato domani dal Ministro dello Sviluppo Economico Romani e dal Ministro per l'Ambiente Prestigiacomo. Quindi diverrà il decreto appunto operativo. Parere, dicevo, negativo ma morbido tutto sommato, da quanto emerge dalla dichiarazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani, di cui ho raccolto l'opinione qualche ora fa. Sentiamo. Dunque Errani, lei ha dichiarato che, cito testualmente, sono stati fatti importanti passi avanti col governo, tuttavia il parere è negativo. Che cosa non vi ha convinto? No, ci sono due punti che secondo noi non sono risolti positivamente. Mm. Il primo è, diciamo, quello che possiamo sintetizzare con i diritti acquisiti dagli investitori in relazione al decreto dell'agosto. Quindi il prolungamento fino a fine agosto del terzo conto energia non è sufficiente a garantire questi diritti, secondo voi? Non garantisce i diritti di quelli che hanno già avviato gli investimenti. D'accordo. La seconda questione è, noi abbiamo presentato una diversa progressione del decalage degli incentivi, meno brusca, e su questo c'è stata una risposta negativa. Detto questo, dato che noi abbiamo l'obiettivo di risolvere i problemi, abbiamo preso atto anche dei passi in avanti fatti, ne posso citare uno per tutti, cioè questo sforzo per quello che riguarda il fotovoltaico sui tetti e un premio nell'incentivo per la bonifica dell'amianto. E siamo pronti a continuare a lavorare, ma intanto abbiamo detto avanti, perché c'è una questione di urgenze, di tempi, che per uscire da questa situazione di incertezza che ha dato, diciamoci la verità, un colpo vero agli investitori e alla filiera produttiva che si sta costruendo sulle energie rinnovabili. Voi non condividete però la preoccupazione per il fatto che, insomma, il costo stava salendo molto e forse si è anche verificata una situazione per cui abbiamo cominciato a confondere rinnovabili con fotovoltaico? Dunque, noi siamo un paese singolare. Quando abbiamo discusso il decreto di agosto, noi abbiamo posto questi problemi. Noi abbiamo detto che bisognava costruire un percorso che tenesse conto anche di una riduzione progressiva degli incentivi, compreso anche un'attenzione rispetto al tema dell'uso del territorio e degli impianti a terra. Noi ponemmo questo problema, non siamo stati ascoltati e si è messo in moto un meccanismo che prevede, diciamo così, diritti acquisiti. Bene, diamo a questo punto il benvenuto a Gianni Chianetta, presidente di Assosolare. Buonasera Chianetta. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, anche lei considera insufficiente questo prolungamento al 31 di agosto del terzo conto di energia, che francamente mi sembrava insperato una settimana fa? Ma assolutamente sì, è insufficiente perché gli impianti che sono in cantiere oggi saranno presumibilmente connessi anche per la fine dell'anno, quindi avremo bisogno di una stabilità del terzo conto energia fino alla fine del 2011 e poi, come abbiamo sempre detto, per i nuovi impianti una riduzione molto graduale, quindi che non superi comunque il 20% nel 2012. Questo è l'aspetto più critico, insomma, le tariffe, sì. Fondamentalmente una questione di tariffe, voi dite? Beh, diciamo, questo è uno dei punti critici, perché in realtà i punti critici su questo decreto sono tantissimi. Abbiamo noi in una posizione congiunta anche con Aperas Energie Future elencato soltanto i punti principali, dove oltre alla questione tariffe e la questione ovviamente anche della tutela dei diritti acquisiti, c'è anche l'inserimento di un cap di potenza, cioè di un tetto alla potenza incentivabile, sì. Esatto, con tra l'altro un accesso complesso e burocratico che già di per sé rappresenta un ostacolo in partenza, con una registrazione all'ingresso e con addirittura il coinvolgimento del gestore di rete nella certificazione, nella fine dei lavori certificata, che rappresenta non solo un ostacolo ma un evidente anche conflitto di interesse, ecco, visto che i gestori di rete sono anche essi stessi investitori, e poi il riconoscimento ancora una volta della tariffa alla connessione, non alla fine lavori certificata, mantenendo quindi le problematiche dell'allaccio alla rete, dell'lungaggine, quindi legando ancora una volta col quarto conto energia l'investitore alla incertezza dovuta a un qualcosa che non gestisce, appunto, nell'investitore. Che non gestisce l'investitore stesso. Senta, però parliamo di cifre altissime, 100-140 miliardi, molto di più se passasse la vostra linea. Non vi sembra un po' eccessivo? I 100.000 posti di lavoro di cui si parla non sono probabilmente sufficienti a giustificare questo investimento. È facile con queste cifre creare quel numero di posti di lavoro? Beh, allora, se si sommano tutti, se sommassimo veramente i soldi che abbiamo speso in fonti tutt'altro che rinnovabili ad oggi, veramente parliamo di cifre altrettanto vertiginose, e invece quindi sono soldi che vengono spesi non solo per l'occupazione ma per avere energia pulita in futuro, per vivere poi di fotovoltaico anche senza incentivi. E poi consideriamo che stiamo parlando comunque di quei famosi 6-7 miliardi che partirebbero al 2016, i quali facilmente possono essere compensati da praticamente dalle fluttuazioni nel prezzo ovviamente dell'energia dovute all'incertezza e alla variabilità dei prezzi delle fonti fossili come il petrolio. Grazie Chianetta. Grazie, risentirci da lei e tutti gli ascoltatori. Bene, per oggi è tutto. Domani torniamo sul tema delle reazioni nucleari a bassa energia. Buona serata.